Il poema di Dante si intitola Commedia, non Divina Commedia. Divina Commedia l'ha intitolato Boccaccio perché amava molto Dante, quindi pensò divina la sua commedia. Il raddoppiamento della M successivo nel Medioevo non c'era, commedia, cioè teatro. Ma è un titolo significativo su più piani. Quello che a noi interessa qui oggi è che del teatro la commedia di Dante ha un elemento fondamentale, cioè ci sono dei personaggi. Dante è il personaggio principale e incontra dei dannati. Però è una commedia scritta in versi, scritta in terzine, che sono strofe composte di tre versi di endecasillabi. Cioè è un teatro delle voci, non c'è indicazione didascaliche, quindi non c'è un'azione che dobbiamo immaginare figurata. Non è mai stato fatto un film sulla commedia, stranamente si potrebbe dire, no? L'Odissea, poema, ci sono molti film, l'Iliade meno, l'Eneide, sulla commedia stranamente no. Fatto curioso, ma probabilmente dipende dalla potenza della lingua di Dante, almeno per noi italiani, e noi qui siamo almeno un po' italiani. Diciamo. Ecco, la lingua della commedia di Dante è la lingua italiana. Cesare Garboli ha detto che quello di Dante non è uno stile, è una lingua, la lingua che parliamo da che è stata scritta la commedia. Quindi per me è un onore e un'emozione leggere a delle persone che studiano la commedia per come è scritta, cioè con attenzione alla lingua, al metro e al ritmo. La poesia non è un'arte scritta, la poesia è un'arte orale. Se non ci fosse l'elemento sonoro, l'elemento musicale, non avremmo il verso, avremmo la prosa. Quello che distingue la prosa dal verso è una ripetizione, un principio di ripetizione, esattamente come in musica. Quindi la lingua che ascolterete parlare è una lingua che canta le proprie parole. Le canta perché le mette in rima, le canta perché le sceglie in base alla loro sonorità. Dante, tutte le volte che si trova in difficoltà tecniche, invoca la musa. La invoca due volte nell'inferno, due volte, addirittura in paradiso invoca Apollo. Perché le muse sono poco per la lingua alta, per la gloria della lingua che vuole far sentire in paradiso. E il suo massimo scopo è far suonare e per suonare un poco in questi versi, dice. Cioè, lo scopo di Dante non è quello che noi leggiamo nelle note a piè di pagina, non è raccontarci la cronaca dell'amore lussurioso fra Paolo e Francesca, è far suonare un poco questa lingua che lui inventava. Quindi noi abbiamo il privilegio di parlare una lingua che nasce come un canto onomatopeico. Voi sentirete che le sonorità infernali sono dure, aspre, sk, str, sk, ko, st, continuamente. Mentre invece in purgatorio già si ammorbidisce e il consonantismo, Dante chiama la matera del canto, cioè la materia del canto, le consonanti, sono già più morbide, fino ad arrivare al paradiso dove la rima più frequente è in doppia L o doppia M. Le parole più usate sono favilla, fiamma, fiamma, favilla, quasi in una specie di monotonia continua che è il piacere della lingua. La lingua poetica è una lingua parlata, è una lingua sonora, si parla di invocazione, di vocazione, no? Invocazione, in poesia si invoca, ma anche c'è una vocazione poetica, un pochino come si ha una vocazione religiosa, si dice c'è la vocazione poetica. C'è una ragione. La lingua della poesia è una lingua vocata. Il suono, la voce sono più importanti del significato, non perché il significato non sia importante, attenzione, ma perché senza l'aspetto musicale non c'è poesia, è prosa. Quindi Quindi Dante poteva benissimo raccontarci, ma lui leggeva nelle enciclopedie oppure riportava i fatti di cronaca, che tutti all'epoca bene o male conoscevano. Quindi lo scopo non era far conoscere un fatto di cronaca, no? Ma farlo, renderlo memorabile come canto. Scopo della poesia è la memoria. Scopo della poesia è la memoria della lingua che parliamo e, in base a questa memoria, il rinnovamento di essa. La lingua ha un corpo vivo, ma che la lingua ha un corpo vivo lo si sa con la poesia, che la rinnova, perché avendo un andamento ritmico sonoro è portata anche all'invenzione. I neologismi sono invenzioni legate molto spesso, no? Si dice licenza poetica, al bisogno di far tornare un suono. Io ho intitolato la mia lettura d'Antis, quando la faccio più in versione teatrale che non didattica come stamani, Voci in commedia. La ricerca che ho fatto è basata sul reperimento di alcune voci che Dante fa parlare, dando indicazioni in genere su come queste voci suonano. Quindi mi è piaciuto provare. E in alcuni casi questo, quindi in alcuni casi l'onomatopea, in altri casi invece, vabbè, nel caso per esempio di Paolo e Francesca, che vi leggerò, l'idea era piuttosto quella di dare una voce a Francesca che non fosse più quella della povera vittima come ce la presentano a scuola, perché Dante mette Francesca nel girone dei lussuriosi, degli incontinenti, e gli incontinenti mentono. E quindi l'amore di Francesca è un amore letterario e mentito. Cita Guinizelli quando dice amor cal cor gentil ratto s'apprende, no? Quindi mi è parso fosse bello trovarle una voce più consona al fatto che è una dannata, non come dicono certi libri, e beh, però Francesca fa pena a Dante. Francesca fa pena a Dante perché Dante stesso ha avuto un periodo in cui si è, almeno secondo il suo giudizio morale, macchiato della colpa della lussuria. Poi cercheremo di andare nella selva dei suicidi a sentire Pier delle Vigne, che, non so se ve lo ricordate, è un albero, perché i suicidi diventano alberi secchi. E lì Dante dà delle indicazioni su come può parlare un albero, un ramo spezzato. E poi infine per l'inferno gli scismatici, sono poco conosciuti, solitamente a scuola non si leggono, però in un periodo come questo è importante sapere che Dante mette Maometto fra gli scismatici, cioè considerava Maometto un autore di scisma sul cristianesimo. In Purgatorio l'incontro con le voci sarà un incontro con le voci dei poeti. Dante in Purgatorio incontra le voci dei poeti che ama, o dei cantanti che hanno cantato i suoi versi, perché, voglio dire, all'epoca di Dante la poesia si cantava, non si diceva neanche, ora il poema magari si recitava, la commedia, ma per esempio le canzoni famose di Dante, Donne che avete intelletto d'amore, eccetera, che noi studiamo come incomprensibili sistemi teologico-letterari, annoiandoci molto, ai tempi di Dante li cantava Casella. Poi vedremo Stazio, Bonaggiunta, Orbecciani, Guinizelli, cioè i campioni del dolce stile, il novo letterario di cui Dante si fa paladino. E infine, fra i lussuriosi, perché i poeti sono lussuriosi della lingua per Dante, Guido Guinizelli e il poeta provenzale Arnaut Daniel. Paradiso, staremo nella stella di Giove. Per Dante aveva due grandi passioni, la poesia e la politica. E nella stella di Giove, la voce dell'aquila, dell'aguglia lodetta, che è l'aquila imperiale, è uno straordinario atto di devozione alla vocalità da parte di Dante, in cui lui immagina un organismo formato da beati che formano un gruppo di beati che forma una M, che Dante dice l'immago della imprenta dell'eterno piacere, e questa immagine è un'aquila, è l'aquila della giustizia imperiale che si fa voce, dice a un certo punto, voce è il modo fiorentino per dire voce, si fa voce,

mentre che l'uno ispirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni meno, siccome io morisse e caddi come corpo morto cade. Non era ancor di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato, non fronda verde ma di color fosco, non ramischietti ma nodosi e involti, non pomi vera ma stecchi con tosco. Io sentia ad ogni parte trar guai e non vedea persona che il facesse, però tutto smarito m'arrestai. Credio che il credette ch'io credesse, che tanti voci uscisser di quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier ch'ai si faran tutti monchi. Allor porsi io la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno, il tronco suo gridò, perché mi schianto? Da poi che fatto fu di sangue bruno, cominciò a gridar, perché mi scerpi? Non ha tu spirito di pietà alcuno, omini fummo e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe esser la tua man più pia, se stati fossimo anime di serpi, come d'un stizzo verde carso sia, da l'un di capi che dall'altro geme, cigola per vento che va via, si della scheggia rotta uscia insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima a cadere e stetti come l'om che teme. Se gli avesse potuto saper prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima non avrebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad opra che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna menda tua fama rinfreschi nel mondo su dove tornar li lece. E il tronco, sì col dolce tirma teschi, ch'io non posso tacere, e voi non gravi, perché io un poco a ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cuor di Federico, e che le volsi, serrando e disserrandosi, soavi, che dal segreto suo quasi ognon tolsi. Fede portai al ghiorioso Uffizio, tanto ch'io per te ali sonni e i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi put, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e gli infiammati infiammarsi l'augusto, che li a di onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio per te sdegnoso gusto, credendo col morir fuggir di sdegno ingiusto, fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia li diede. Un poco attese poi, da che il si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi lui se più ti piace. Ond'io a lui, dimandal tu ancora di quel che credi che a me soddisfaccia, ch'io non potrei tanta pietà, ma cora. Perciò ricominciò, se l'on ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, ispirto incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne se tu poi s'alcuna mai da tai membra si spiega.

Bertrand de Born era un poeta, un trovatore provenzale. E Dante lo punisce staccando in quanto traditore, in quanto traditore, per Dante i traditori sono veramente intollerabili. Lo punisce con la peggior punizione che Dante può dare a un poeta, cioè gli leva la voce, gli leva il mezzo, lo strumento. E dice di Bertrand, che fa parte della trista greggia degli scismatici, quando incontra, ora ci arriviamo, in purgatorio, i poeti golosi, perché i poeti sono golosi e lussuriosi, i poeti sono coloro che peccano per lingua, perché la lingua poetica, non avendo alcuna funzione comunicativa, ma solo una funzione di piacere, è peccaminosa. La poesia è un peccato della lingua, nel senso che non si vuole comunicare alcunché, ma solamente godere di un suono. E Dante lo sa benissimo questo. E di questi poeti dice che fanno parte della santa greggia, ecco la coerenza, no? Del linguaggio poetico. Quindi i scismatici, il poeta cattivo, quindi poca voce, voce distrutta, il male, tanta voce, paradiso cantano, il bene. In purgatorio i poeti fanno parte della santa greggia di coloro che sono destinati alla beatitudine eterna. Purgatorio. L'anime che si fuor di me accorte per lo spirare ch'io era ancor vivo, meravigliando diventaro ismorte. E come un messagger che porta ulivo tragge la gente per udir novelle, e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affisser quelle anime fortunate tutte quante, quasi obliando di raffarsi belle. Io vidi una di loro trarsi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a far lo simigliante. Ombre vane, forche nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornar con nulla al petto. Di meraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, io, seguendo lei, oltre mi pinsi. Soavemente disse ch'io posasse, allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. E io, se nuova legge non ti toglie, memoria uso all'amoroso canto che mi solea acquietar tutte mie voglie. Di ciò ti piaccia consolarmi alquanto l'anima mia che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, comincio egli a lorsi dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi sona. Lo mio maestro e io e quella gente che eran con lui pareansi contenti come a nessun toccass'altro la mente. Trema forse più giù poco, assai, ma per vento che in terra si nasconda non so come, quassù non trema mai. Tremaci quando alcun'anima monda sentesi, sì che surga o che si muova per salir su, e tal grido seconda della mondizia sol voler fa prova, che tutto libero a mutar con vento l'alma sorprende e di voler li giova. Prima vol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia con tal voglia, come fu al peccar, pone al tormento. E io, che son giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentì libera volontà di miglior soglia, però sentisti il tremoto e li pii spiriti per lo monte render lode a quel signor che tosto su l'invii. Ora chi fosti, piacciati ch'io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui sei nelle parole tue mi cappia. Tanto fu dolce mio vocale e spirito che Tolosano a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempi ornar di mirto. Stazio la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor forse me le faville che mi scaldar della divina fiamma, onde sono allumati più di mille dell'Eneide dico, la qual mamma fummi e fumi nutrice poetando, senz'essa non fermai peso di dramma.

come Bertrand. Bertrand parla in italiano, cioè non nella lingua materna, e non ha voce. Arnaut sta addirittura in una lingua di fuoco. Stanno in una lingua di fuoco e lussuriosi, si purificano. E il suo parlare in provenzale ce la dice lunga sull'idea che ha Dante della poesia. Guinizelli, il poeta che Dante chiama il padre mio, lo nomina il miglior fabbro del parlar materno. La poesia è la lingua materna che canta, cioè la lingua nella quale la madre ci alleva. Darotti un corollario, ancor per grazia. Quelli canticamente poetaro, l'età dell'oro e il suo stato felice, forse in Parnaso e sto loco sognaro, qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre e ogni frutto, nettare questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi allora tutto ai miei poeti e vidi che con riso udito avevano l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornai il viso. E si va in paradiso. O buono Apollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor, si fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro. Insino a qui l'un giogo di Parnaso assai mi fu, ma or con ambedue me uopo entrar, nell'aringo rimaso, entra nel petto mio, e spira tue, sì come quando Marsia traesti della vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti, tanto che l'ombra del beato regno segnata nel mio capo io manifesti, vedrami al piè del tuo diletto legno venire e coronarmi delle foglie che la materia e tu mi farai degno. Sirra de volte padre se ne coglie per trionfare, o Cesare o poeta, colpa e vergogna dell'umane voglie che parturir letizia in sulla lieta delfica deità dovria la fronda peneia, quando altrui di sé a seta poca favilla, gran fiamma seconda, forse di rietro a me con miglior voce si pregherà perché Cirra risponda. L'invocazione ad Apollo è una richiesta di voce, con miglior voce. Entra nel petto mio e spira tue, soffia, lo spiro, il soffio e il respiro, su cui la voce naturalmente nasce, si sviluppa e vive. Ecco il cielo di Giove e la guglia l'ho detta. Io vidi in quella iovial facella lo sfavillar dell'amor che li era segnare agli occhi miei nostra favella, che come auselli surti di rivera, quasi congratulando lor pasture, fanno di sé or lunga or tonda schiera, si dentro ai lumi sante creature volitando cantavano e faciensi or di ori orelle in sue figure, prima cantando a sua nota moviensi, poi diventando l'un di questi segni un poco s'arrestavano e tacienzi. O diva Pegasea, che l'ingegni fai gloriosi e rendili longevi, ed essi teco le cittate e i regni, illustrami di te, sicch'io rilevi le lor figure, com'io l'ho concette, paia tua possa in questi versi brevi mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti, e io notai le parte sue come mi parver dette, diligite justitiam primai fu verbo e nome di tutto il dipinto, qui iudicati sterram forse zai, poscia ne lemme del vocabol quinto rimasero ordinate, sì che Iove pareva argento lì d'oro distinto, e vidi scendere altre luci dove era il colmo dell'emme, e lì quietarsi cantando, credo, il ben casselle muove, poi come nel percuoter de ciò carsi surgono innumerabile faville, onde gli stolti sogliono augurarsi, surger